No, Sting of the Blues, non ci posso ridere. Senti là? Cazzo, ma si sente? Ma sente bene, ti ho detto, senti sì, ma secondo me loro c'hanno no, tu puoi entrare tu, a voglia. Ah, questo tu lo puoi comprare anche come plugin, VST. Che lo puoi trovare su Cubase, su che tu vuoi, su... Cerco, e tu mi devi dare tempo per sistemare questa affare. Vai, sistema, vai, provo, vai.